il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Nell'autunno del 2013 è stato inaugurato a Padova il centro di cottura della città. Gestito da Dussmann Service, che ne ha curato impianti e attrezzature con un investimento di circa 4 milioni di euro, oggi produce 8.500 pasti giornalieri sia per la ristorazione scolastica che per i servizi domiciliari. Al termine dell'appalto, il centro rimarrà a disposizione del comune e quindi sarà a beneficio della collettività. Perché non vogliamo parlare oggi al quadrifoglio? Perché questo centro è attrezzato con macchinari all'avanguardia che garantiscono, oltre alla qualità dei pasti prodotti, anche un significativo contenimento dei consumi elettrici e di gas. C'è anche una molta attenzione agli sprechi. Tutta la realizzazione ha privilegiato l'ecosostenibilità, a partire dalla scelta del luogo, l'interporto, che permette di ridurre al minimo il trasporto delle materie prime. Inoltre, il centro di cottura ha aderito alla campagna governativa triennale Italia in classe A, promossa dal Ministero e realizzata da Enea per ridurre l'impatto ambientale e l'inquinamento. Di questo centro vogliamo parlare oggi con Francesco Garrubba, il direttore delle operazioni della Divisione Sviluppo Ristorazione Scuole di Dussmann. Dottor Garrubba, questo centro di cottura è un fiore all'occhiello, perché? Allora, è un fiore all'occhiello per diverse ragioni. Prima di tutto basti pensare che 3 anni fa il comune di Padova non possedeva un centro di cottura, quindi da 2 anni a questa parte è proprietario di un centro di cottura che è stato costruito rispettando l'ambiente, rispettando tante procedure. Le faccio un esempio: si recupera il calore per preriscaldare l'acqua all'ingresso, si recupera l'energia elettrica perché ci sono dei sensori di movimento, si risparmia l'acqua perché ci sono dei riduttori di flusso, cioè c'è un risparmio energetico abbastanza importante. Basta pensare che ci sono anche dei pannelli fotovoltaici al di sopra del tetto, quindi l'acqua calda viene preriscaldata all'interno in modo tale da ridurre i consumi energetici. È un centro di cottura, è un fiore all'occhiello perché è un centro di cottura che vede impiegato circa 200 persone, è un centro di cottura che produce 8.000 pasti giorno, rispettando tutte quelle che sono le norme per il rispetto dell'ambiente, quindi dall'ultima legge del GPP che è uscita dalla Comunità Europea all'impatto ambientale degli automezzi, a tutto ciò che riguarda l'ambiente, allo spreco alimentare. Quindi anche in un centro di cottura come il vostro si può provare a risparmiare energia? Assolutamente sì, come dicevo le faccio un esempio, i gruppi frigoriferi delle celle producono del calore, questo calore come tutto il calore prodotto nel centro cottura viene convogliato in una camera di scambio termico in modo tale che l'acqua all'ingresso non è la classica acqua diretta alla temperatura ambiente esterna, quindi i 3-4 gradi, bensì viene preriscaldata, quindi c'è un recupero energetico da questo punto di vista. Un altro aspetto è anche ciò che il centro di cottura produce, faccio un esempio, depuriamo anche le acque reflue che vengono tra virgolette trattate con i fanghi attivi ad ossigenazione totale, e viene ridotta anche i volumi di rifiuto perché vengono tritati e separati dai liquidi, quindi sia ciò che entra che ciò che esce ha come obiettivo principale il rispetto dell'ambiente. Mi viene da pensare che quando si parla di 8.000 pasti al giorno viene automatica l'idea che ci siano sprechi anche dal punto di vista energetico, però forse proprio perché sono così tanti pasti, quindi un lavoro così importante, si tratta soprattutto di organizzazione, quindi è l'organizzazione del lavoro che permette anche di ottimizzare tutti quanti i vari passaggi, i risparmi e anche i costi. Assolutamente sì, c'è una squadra, come dicevamo prima, di circa 200 persone, un'organizzazione ben definita, la direttrice è presente tutti i giorni nel centro di cottura, comprensivo il capo area, che controllano dall'acquisto alla lavorazione, alla fornitura di qualsiasi, non solo dell'energia elettrica, della materia prima, del personale. Questa azienda poi possiede tantissime certificazioni, anche la certificazione per il rispetto del lavoratore, la certificazione per il rispetto dell'ambiente, la certificazione che ci permette di dare un valore aggiunto a quello che è il lavoro che facciamo. Voi avete partecipato a questa iniziativa, diciamo, ministeriale che si chiama Italia in classe A, un progetto triennale che nel mese di novembre ha avuto una particolare campagna alla quale voi avete aderito. Cosa avete fatto? Niente, con questo progetto in classe A, è un progetto in cui c'è la collaborazione di EBNEA e del Ministero dello Sviluppo Economico. Già a novembre abbiamo coinvolto tutti i dipendenti che lavorano presso il centro di cottura di Padova e l'obiettivo è stato quindi quello di ridurre il consumo di acqua e di energia elettrica, quindi è stata fatta una formazione on the job in aula in modo tale da dare tutti quei suggerimenti ai lavoratori per ridurre quelli che sono i consumi, che uniti alla tecnologia che presenta il centro di cottura potrebbero veramente dare un'eccellenza a questo centro di cottura. Una particolarità, so che voi avete anche fatto una scelta responsabile per quanto riguarda il trasporto, avete degli automezzi tutti certificati Euro 6. Assolutamente sì, la politica di Dussmann che vuole diventare sempre più green è quella di utilizzare prodotti elettrici, prodotti ibridi o al massimo furgoni ibridi, furgoni elettrici o al massimo furgoni Euro 6. Quindi siccome noi collaboriamo con una società che ci misura il carbon print, in qualche modo vogliamo misurare quanto carbone abbiamo prodotto per fornire questo pasto ai bambini. Ecco, ultima cosa, mi pare che siete tra i pochi che avete anche un laboratorio di pasticceria al vostro interno. Assolutamente sì, in questo centro di cottura abbiamo costruito una pasticceria e vengono prodotti per tutti i bambini del comune di Padova dei dolci freschi, senza utilizzo di additivi e di conservanti, cose che non vengono fatti in tutti gli altri centri di cottura. Ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Bye. Ritorniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando del centro di cottura di Padova, un fiore all'occhiello nel settore della ristorazione collettiva. Abbiamo parlato prima di tutti gli accorgimenti per un risparmio energetico, per la sostenibilità di questo centro che prepara oltre 8.000 pasti al giorno. Parliamo adesso però anche di sprechi. Ne parliamo con la direttrice del centro, Claudia Frane. Ecco, non c'è solo un risparmio energetico, c'è anche un'attenzione particolare allo spreco, quindi i pasti che vengono realizzati seguono tutto un particolare procedimento, per cui è poco quello che si butta via. Certo, noi ogni mattina abbiamo il dato che riguarda le presenze dei bambini in mensa, che ci viene dato da un software di nostra gestione che comunque è avvalorato anche dai dati che dà il comune stesso, perché è proprio il comune che inserisce le anagrafiche, e dopo noi abbiamo la possibilità quindi di produrre strettamente quelli che sono i pasti che ci sono stati indicati, e quindi alle scuole vengono inviati il numero di pasti totali più una percentuale concordata con il cliente stesso. Successivamente nelle scuole, soprattutto in alcune scuole identificate dal Comune di Padova, abbiamo anche la possibilità di recuperare quelli che sono le eccedenze di somministrazione, che vengono prelevate da un'associazione, che è l'Associazione del Buon Samaritano, che attraverso dei volontari fa questa attività, evitando quindi gli sprechi. Poi naturalmente, per quanto riguarda le materie prime che possono avere una shelf life molto breve e che possono in alcuni casi non essere quindi forniti per il nostro servizio ai bambini, vengono forniti a delle associazioni, può essere l'Associazione Volontariato di Padova oppure le cucine popolari, evitando quindi gli sprechi giornalieri. Ecco, quando si parla di cibi, quindi di diete che vanno a questi ragazzi, voi dovete seguire dei disciplinari o degli accordi, dei capitolati ben precisi, che sono fatti anche dai nutrizionisti, che sono chiesti dai vari comuni che voi servite, quindi ciò che va ai ragazzi è ben definito, e quindi se ci sono anche questi capitolati, sono soggetti a verifica continua, per cui anche il controllo degli sprechi, di cosa può essere eventualmente sprecato, è appunto sempre verificato. Sì, per quanto riguarda l'elaborazione dei menù, viene fatta in collaborazione appunto con il Comune di Padova, e viene fatta anche attraverso un'analisi approfondita che noi facciamo attraverso delle schede di gradimento, e annualmente insieme con le dietiste, di solito in estate durante quelle che sono le attività ridotte, viene valutato il gradimento appunto di alcune pietanze e viene elaborato il nuovo menù. Grazie. E passiamo adesso ad alcune brevi notizie per chiudere la trasmissione. Anche i profumi inquinano? Pare di sì. Ce lo ha fatto sapere Marco Vecchiato, giovane laureato in scienze ambientali e ricercatore all'Università Ca' Foscari di Venezia, che ha effettuato uno studio sull'inquinamento da profumi nella laguna veneziana, nato da una ricerca sugli inquinanti costituiti dai prodotti per la cura personale, come saponi, cosmetici, profumi e shampoo. Sono composti da una molteplicità di fragranze sintetiche di cui sono ancora ignoti gli effetti nell'ambiente, e sono immessi in laguna attraverso le acque di scarico. Essendo Venezia priva di un sistema fognario adeguato alla raccolta delle acque reflue, una larga parte di queste sostanze viene riversata nei canali urbani interni e quindi in laguna. Le analisi effettuate da Vecchiato hanno rivelato alte concentrazioni di profumi salicilati. Il passo successivo sarà ora quello di capire le conseguenze, e cioè se queste sostanze si sedimentano, si disperdono nell'aria o vengono assorbite dalla fauna ittica. Si svolge a Santa Lucia di Piave questa settimana, da sabato 10 a lunedì 12 dicembre, la Fiera Internazionale dell'Agricoltura, un appuntamento internazionale del comparto agricolo che fonda le sue radici in una tradizione ormai millenaria. L'evento coinvolge tutti gli operatori del settore, mettendo in relazione espositori, visitatori, istituzioni, attraverso la creazione di occasioni di interscambio tecnico e commerciale. In esposizione vi sono prodotti e servizi per l'agricoltura, viticoltura, frutticoltura, zootecnica, le attività forestali e il settore delle energie rinnovabili. Apertura dalle 9 alle 18, costo d'ingresso €7,50, ma vi sono agevolazioni per le famiglie. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento con la prossima settimana al Quadrifoglio, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it.